Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Il caldo sta cominciando ad imperversare in tutta Italia, siamo un po' intimoriti e speriamo di sopravvivere a questa ondata che dovrebbe arrivare. Speriamo intanto di sopravvivere anche a questa nuova notizia che è arrivata in questi giorni e che ha fatto un po' così, ha turbato un po' i sonni di qualcuno. Abbiamo già avuto modo di parlare in passato nella nostra trasmissione, anche su sollecitazione di molti ascoltatori che erano piuttosto interessati al tema, della nuova forma di prestito che è in forte avanzata nel nostro paese, quella del social lending, il prestito sociale, in particolare della formula del prestito tra privati che, senza alcuna intermediazione da parte delle banche, mette in diretto contatto richiedenti e prestatori, le parti fra cui si forma poi il meccanismo di domanda e offerta che a sua volta regola il tasso che viene praticato sul prestito. Due le società operanti in questo campo da circa un anno e mezzo nel nostro paese, Zopa.it e Boober, che hanno attirato qualcosa come 40.000 persone sulle rispettive piattaforme fra prestatori di denaro e prenditori di denaro. Ieri la doccia fredda per la comunità di Zopa e per scoprirla bastava collegarsi al sito della società. Cosa è successo? Che alla società è stata revocata l'autorizzazione ad operare, circostanza che ha mandato in fibrillazione tutti i sostenitori della comunità, sostenitori attivi con il proprio denaro. E allora cosa è successo? Cosa succede adesso anche a chi ha prestato il suo denaro e a chi lo ha chiesto in prestito? Tutto questo stamattina ce lo spiegherà Maurizio Sella, l'amministratore delegato di Zopa.it, che ringraziamo molto perché tempestivamente ha accettato questo confronto con noi di Salva Danaio e soprattutto con gli ascoltatori e i zopiani, perché addirittura si parla di una comunità come se stessero su un altro pianeta. Dottor Sella, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Senza ovviamente nessun tipo di polemica, ma ho letto da qualche parte appunto che addirittura fra i membri della comunità vengono definiti in questa maniera. Con noi stamattina anche Pier Emilio Gadda, collega, giornalista esperto di fondi etici e di microcredito, perché questo poi tra l'altro è il settore in cui queste piattaforme operano. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Pier Emilio. In realtà il sistema forse si ispira, almeno nella forma iniziale, originaria, al microcredito, poi si tratta di una cosa comunque diversa che più che altro ha importato in Italia il concetto del social lending, quindi di prestito tra privati. Benissimo. Ci sono sicuramente delle assonanze tra i due fenomeni. E allora anche questo avremo modo di commentare questa mattina, avremo modo di discutere anche di tutto questo. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri commenti, per le vostre domande, se siete interessati perché avete prestato su questa piattaforma il vostro denaro oppure avete chiesto un prestito su questa piattaforma di cui avevate necessità. Cosa succede adesso? Soprattutto cercheremo di capire se ci sono i termini per far sì che la società possa riprendere la sua attività. Numero verde, ve l'ho ricordato, il numero per i messaggi è 349 238 66 66. I numeri della borsa invece stamattina sono piuttosto positivi, esattamente come è successo ieri. Oggi la borsa europea replica, c'è stata una buona tenuta dei guadagni di ieri. Oggi abbiamo un più 0,58% su Parigi, Francoforte più 0,88%, Londra più 0,7%, Milano in rialzo di un punto percentuale spinta da titoli bancari, e proprio il comparto bancario teniamo sotto osservazione in queste ore perché riprende la stagione delle trimestrali in questo settore negli Stati Uniti. Oggi comincia Goldman Sachs, ma ieri già il mercato ha avuto qualche anticipazione e sembra che i risultati saranno sicuramente positivi. Speriamo oggi di non essere, come dire, smentiti dai dati che il gruppo comunicherà. Banco Popolare, miglior titolo della seduta a Milano, il titolo recupera le perdite degli ultimi giorni, almeno in parte, che sono ancora perdite legate alle vicende di Banca Italise, più 3,37%, Mediobanca più 2,53%, Fiat più 2,49%, abbiamo un rialzo di 2,5 punti per Unicredit, Luxottica più 2,35%, Intesa San Paolo più 2,28%, quindi come vedete in avanzata tutti i titoli del settore bancario, ma anche assicurativo, Fondiaria più 1,70%, Monte dei Paschi più 1,65%. Scende invece di un punto Buzzi, ma scende anche Parmalat di un punto, Autogrill meno 0,8%, meno 0,8% per Telecom, Mondadori meno 0,48%, Campari meno 0,44%. Recupera l'euro sul dollaro a 1,39,83, il petrolio è a $60 al barile. È sceso stamattina a sorpresa l'indice tedesco ZEV di luglio, l'indicatore che misura le attese degli investitori, ma è stato un dato evidentemente trascurato dalla comunità finanziaria perché, vi ripeto, appunto la borsa oggi è positiva. Oggi parliamo di prestito conflitto fra privati nel nostro paese. Sentiamo che cosa è accaduto a una delle due principali piattaforme che operano nel nostro paese in questo settore. Estate amara per il social lending. Dopo il boom che ha contraddistinto nei mesi scorsi il canale del prestito online tra privati, è arrivato lo stop di Banca Italia. Venerdì scorso, infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione di Via Nazionale, ha cancellato dall'elenco degli intermediari finanziari Zopa, uno dei leader del settore del prestito sociale. E i clienti, tra debitori e prestatori, in attesa di capire le ragioni del provvedimento e le sorti del proprio denaro, sono migliaia. A causa della crisi finanziaria e delle conseguenti difficoltà di accesso al credito, nell'ultimo anno sono stati infatti oltre 40.000 gli utenti che hanno deciso di scambiarsi denaro online, preferendo di fatto il web ai tradizionali intermediari. Le ragioni? Oltre che alla rapidità del meccanismo di prestito, anche la convenienza, sia per chi presta che per chi riceve denaro. I prestiti tra privati costano infatti meno del credito al consumo. Il TAEG, il tasso annuo effettivo globale applicato ai migliori rischi di credito, è intorno al 6%, dove invece il tasso bancario per i prestiti personali, mediamente, supera l'11,5%. Un debitore meritevole di credito, dunque, ottiene i soldi più rapidamente e al 5% in meno di costo rispetto alle banche. I costi di intermediazione sono ridotti al minimo, un po' come succede ad esempio con le assicurazioni online, in quanto il prestatore e il contraente del prestito vengono messi in comunicazione diretta attraverso la società che fa da garante in caso di morosità. Zopa e Buber funzionano dunque come una sorta di comunità virtuali che agiscono in pratica da semplici facilitatori dello scambio. Creano il mercato mettendo a disposizione una piattaforma sulla quale si possono incontrare domanda e offerta. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori, soprattutto per gli zopiani, immagino. Dottor Sella, c'è già una domanda di un ascoltatore che, per nulla intimorito da quello che è accaduto in Italia, sono uno zopiano prestatore, dice: chiedo al dottor Sella se possiamo prestare su Zopa UK, quindi per la vostra comunità sul Regno Unito. No, in realtà questo non è concesso, diciamo che bisogna essere residenti nel paese, quindi dovrebbero essere residenti inglesi, e quindi questo non può avvenire, purtroppo. Azzeriamo però la situazione, resettiamo e raccontiamo quello che è successo. Io le devo dire la verità, mi ha molto stupito la dinamica del tutto fortuita con cui la notizia del blocco della revoca dell'autorizzazione ad operare che vi è arrivata nel fine settimana è stata diffusa dai giornali. Perché? Perché proprio nel fine settimana, e molti magari ci avranno fatto caso e avranno anche avuto dubbi sulle modalità con cui queste notizie sono state diffuse, sono stati appunto diffusi questi dati sul boom del social lending nel nostro paese. Mi faccio aiutare proprio da Pier Emilio Gadda per commentare questo. Notizie che erano proprio, tra l'altro, corredate da lunghe interviste al dottor Sella, che commentava questo andamento del tutto felice per il settore, del tutto favorevole. Sì, probabilmente si tratta di lanci di agenzia un po' vecchiotti, e infatti i dati relativi al boom del social lending risalgono, se non ricordo male, al marzo di questo anno, in quel periodo. Tra l'altro un periodo interessante, perché è proprio il momento in cui la strata creditizia e l'irrigidimento delle condizioni di accesso al credito sembrava intensificarsi, invece il meccanismo del social lending sembrava funzionare. Certo, è suonato del tutto assurdo trovarsi sulle pagine boom del social lending, quando in realtà negli stessi giorni accadeva quello che stava accadendo. Infatti, dottor Sella, sembrava quasi una difesa indiretta che lei dovesse fare della sua società, del suo operato, proprio nel momento in cui Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia vi dicevano basta. No, assolutamente casuale, tra l'altro abbiamo visto anche noi sui giornali, si tratta di dichiarazioni che avevo fatto, sì, penso nel mese di aprile, e quindi totalmente casuale, posso confermarlo, sono stati ripresi da più giornali, da più siti online, eccetera, ma vi posso assicurare che non era questa la nostra intenzione. Diciamo cominciamo un po' con la vostra storia. Allora, io mi ricordo che l'ho invitata qualche mese fa, ma voi operavano, forse due volte l'ho invitata, anche l'anno scorso. Voi avete cominciato ad operare nel nostro paese nel febbraio 2008, se non ricordo male. Nel gennaio 2008, esatto. E la trafila per rendervi operative non è stata esattamente semplice, peraltro. No, esatto, siccome è un servizio totalmente innovativo, un concetto nuovo, noi siamo partiti senza in realtà averne veramente bisogno, discutendo con la Banca d'Italia, presentando questo progetto. Cioè, è comprensibile che ci siano dei dubbi su questo meccanismo, perché è qualcosa di totalmente nuovo. In realtà noi come finanziaria 106 avremmo potuto richiedere la licenza semplicemente all'Ufficio Italiano Cambi, che dal luglio 2008 si è fuso in Banca Italia. Quindi la totale trasparenza del progetto, e ovviamente siamo stati coadiuvati da fior fior di studi legali per portare da professori universitari che hanno confermato la bontà del nostro progetto. Quindi detto questo, poi vi racconterò l'evoluzione, ma diciamo che in questo momento siamo più che altro stupefatti. Stupefatti perché è un provvedimento estremamente grave che ci è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Diciamo che noi abbiamo avuto un'ispezione a Banca d'Italia dalla quale sono emersi sicuramente dei rilievi, delle contestazioni al vostro modello operativo, esatto. Vi erano state fatte, voi stavate modificando noi abbiamo anche risposto, il vostro assetto. Noi abbiamo risposto nei tempi dovuti, specificando che uno, il nostro modello operativo siamo convinti fermamente legalmente che sia corretto, e due, comunque abbiamo detto, ma noi siamo disposti anche ad implementare dei cambiamenti. Da allora abbiamo cercato di ottenere udienza, abbiamo scritto nel mese di aprile, quindi largamente nei termini, per chiedere incontro e specificare che due controparti, di cui una bancaria, avevano accettato questo nostro concetto, che prevedeva sostanzialmente l'apertura, ecco, di un... Che tipo di modifica avevate proposto alla vostra attività? Perché poi dobbiamo ricordare anche esattamente come funziona adesso, sì, l'incontro tra la domanda e l'offerta di chi presta e di chi chiede, esatto, denaro. Esatto, però l'idea era che ogni prestatore dovesse aprire un conto di moneta elettronica, che è un conto molto più semplice, senza bolli, senza costi, senza giorno valuta, eccetera, ogni volta che avrebbe deciso di prestare su Zopa, cioè diciamo una volta soltanto. Questo era assolutamente qualcosa di risolutivo degli eventuali dubbi su qualcosa, ripeto, sui quali siamo convinti di aver operato correttamente. Quindi noi ci siamo difesi, anche perché queste sono contestazioni formali, abusivismo bancario, lei sa che comporta anche delle sanzioni di carattere penale. Esatto, quindi ci siamo difesi fortemente, siamo convinti e siamo sereni, e questo lo testimoniano anche, diciamo, più controparti, a parte ovviamente la nostra community che è solidale con noi, ma quella, diciamo, sono, potrebbero essere considerati partigiani. Ripeto, bisogna vedere le carte e... Il tema è che adesso comunque, in ogni caso, qualunque cosa succeda, voi dovete ricominciare da zero tutto, perché qualora crediate, mi pare di capire che sia così, fermamente in questo tipo di business, e anche se deciderete appunto di passare al nuovo modello di business che è stato proposto in Banca d'Italia, ma che loro evidentemente non hanno accettato perché hanno deciso comunque di revocare l'autorizzazione, di fatto per voi significa ricominciare da zero e capire che fine fanno adesso chi ha chiesto un prestito e chi ha dato il suo denaro perché finisse nelle tasche di qualcun altro. Sì, devo dire che la cosa più straordinaria di questo provvedimento che abbiamo letto venerdì pomeriggio è che sostanzialmente si accetta la nostra soluzione, si dice che avrebbe risolto i nostri problemi, però evidentemente non si sa perché non hanno voluto parlarne nel frattempo, loro dicendo di passare, di azzerare la situazione. No, il problema è che la cancellazione è effetto immediato, quindi noi da quel momento in avanti non possiamo più operare, quindi non siamo più una 106, non possiamo operare con nuovi prestiti, quindi dobbiamo teoricamente richiedere, rifare domanda successivamente, ma evidentemente stiamo attivandoci anche dal punto di vista legale. Dottor Sella, oltre a rispondere naturalmente adesso ai vostri clienti, ai vostri prestatori, ai vostri richiedenti, chi sono i soci di Zopa? Chi dovete rispondere di quello che è accaduto? I soci di Zopa sono fondamentalmente, a parte il sottoscritto, ci sono altre due persone fisiche che sono i fondatori e sono degli imprenditori sostanzialmente italiani. Quindi lei che ha avuto completamente la gestione, diciamo, del modello di Zopa? Diciamo che c'è un consiglio d'amministrazione, io sono amministratore delegato, c'è un presidente, no, collegio sindacale, con lei, non perché gli altri se ne fossero disinteressati ovviamente, ma no. Diciamo che, ecco, nel concreto poi lei è quello che ci mette anche la faccia in questa, assolutamente, in questo, sì, in questo dal primo giorno all'ultimo. Ecco. Senta, le faccio subito sentire una domanda di un ascoltatore e poi naturalmente chiacchiero anche con Pier Emilio, non è che mi sono dimenticata di averti invitato ovviamente. Abbiamo anche tra l'altro qualche commento di Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum, che c'è da dire: da quando il fenomeno del social lending in Italia è nato, lui non è mai stato convinto particolarmente di questo modello, ce ne ricorderà le ragioni e sentiremo anche che cosa pensa rispetto a tutto quello che sta accadendo. A Zopa.it. Marco da Roma, benvenuto. Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Io sono un prestatore già da un anno, quindi maggio 2008, ho fatto un test, quindi oramai che è durato un anno, con grande soddisfazione, nonostante che avessi avuto un ritardo di un incasso di un prestatore però sono molto contento e voglio dire all'amministratore delegato, per cortesia non si lasci intimidire o meno, combatta, perché io ero in procinto di fare un ulteriore grosso versamento, tanto ero soddisfatto. Ecco, ecco, no, tra l'altro Marco, lei presta il fianco anche ad una domanda che io a Sella volevo fare, perché quello che vi viene contestato dalla Banca d'Italia è le modalità con cui operate, il fatto che voi, come dire, recuperiate tutto questo denaro da parte di chi lo vuole mettere a disposizione della comunità dei zopiani e quindi fate dei collettori, agite come dei collettori, e quindi la Banca d'Italia dice, insomma, voi operate come se fosse un soggetto che in qualche maniera opera nel settore del risparmio e dell'investimento, avreste bisogno di ben altre autorizzazioni per operare in questo senso. Marco agisce proprio in questi termini, evidentemente prestare del denaro su questa piattaforma a lui remunera, è un'azione che remunera. Certo, ma non sta pensando, non viene remunerato perché i conti sono un conto su un conto corrente che Zopa ha aperto ed è un conto terzi nei conti d'ordine, per essere tecnici, quindi fuori dal patrimonio di Zopa. Lui viene remunerato perché i suoi soldi vengono trasferiti nel conto corrente di un richiedente prestito presso altre banche e che gli paga ogni mese degli interessi. Quindi questa è l'operatività vera. Il fatto, noi siamo degli intermediari di pagamenti, noi possiamo assomigliare a istituzioni come i Money Transfer, possiamo assomigliare a altre istituzioni intermediari di pagamento che ovviamente prevedono che esista un trasferimento di liquidità, che ci sia un passaggio da liquidità su un conto, diciamo, aziendale, anche se non fa parte del proprio patrimonio, e funzioniamo come tanti altri. C'è PayPal, anche... scusi, è l'altro. PayPal, sì. Esattamente, uno può trasferire i soldi, li lascia lì e poi li usa a suo... Quindi voglio dire, adesso voglio evitare di entrare nelle tecnicalità giuridiche, però è un pochino per fare un ordine di paragone, questo è come funziona. C'è anche Francesco che credo volesse fare una domanda simile a quella di Marco. Francesco, peraltro, da Brescia ci aveva scritto una mail questa mattina e noi l'abbiamo prontamente contattato per chiedergli appunto la sua disponibilità anche a fare direttamente la domanda al dottor Sella. Francesco? Sì, buongiorno a tutti, grazie. La mia domanda riguardava appunto quello, cioè la perdita delle condizioni che hanno determinato l'iscrizione all'elenco generale. Ne abbiamo già parlato, e quindi Francesco, il fatto è che mi ha sconvolto è che come mai fosse stata iscritta Zoppa nell'elenco generale, quando in realtà la Banca d'Italia sapeva già la proposta di Zoppa e che Zoppa interveniva non dal punto di vista della raccolta dei fondi, ma di una semplice gestione passiva in sostanza, no? Quindi la mia domanda che rivolgo all'amministratore è questa, quindi non capisco come mai di punto in bianco si sia intervenuto in questo modo da parte della Banca d'Italia, quando la proposta di Zoppa era appunto molto più chiara, quindi è questa la mia domanda, ecco. Francesco, sentiamo il dottor Sella. Dunque, diciamo che l'autorizzazione è stata data dall'Ufficio Italiano Cambi, no? Che era l'autorità preposta al controllo delle 106. Quindi noi le conversazioni con Banca d'Italia sono avvenute separatamente, se vogliamo. Successivamente, da quando la Banca d'Italia si è fusa con... l'UIC è stato assorbito dalla Banca d'Italia, mi pare nella primavera del 2008, noi siamo stati oggetto di un'ispezione. Questa ispezione è avvenuta nel mese di febbraio, ci sono state delle contestazioni, vi posso raccontare che alla fine dell'ispezione è stato espresso apprezzamento per la nostra attività e primo commento, il secondo commento, perché consente di ottenere i tassi migliori delle finanziarie, sicuramente delle banche, nei prestiti personali, e questo era il primo commento. Il secondo dice: dovete mettere a posto questo aspetto del conto Zopa Lenders, chiamiamolo. Alla domanda del nostro presidente, ma bisogna fare qualcosa, cioè dobbiamo attivarci già in questo senso, la risposta è stata no, aspettate che vi scriviamo. Poi ci hanno scritto il 4 di febbraio, o meglio ci hanno convocato a Roma, contestandoci questa questione. Detto questo, hanno anche detto: noi non siamo qua per chiudere, noi siamo qua per collaborare con voi, ed è nata, all'inizio c'è stata un po' di collaborazione. Abbiamo fatto queste proposte che avevamo capito, sapevamo che sarebbero state pertinenti al problema. La cosa che francamente ci lascia, ripeto, stupefatti è che non ci sia stata poi successivamente al 5 di marzo, nonostante nostre telefonate richieste, francamente nessuna opportunità di confronto. Benissimo, noi abbiamo ricostruito credo a sufficienza quello che è accaduto, adesso dobbiamo guardare avanti e dobbiamo andare al nodo centrale della trasmissione anche di questa mattina: cosa succede a chi ha prestato denaro, a chi lo ha ricevuto invece in prestito. Peraltro adesso devo sentire le anticipazioni del GR Extra Large. Pier Emilio, nella seconda parte ricomincio con te e ti leggo questo messaggio di questo ascoltatore. La Banca d'Italia è posseduta da banche private che vedono male il social lending, quindi puntini puntini. Sarà questo il motivo per cui è stato stato colpito il dottor Sella addirittura. Eccoci di nuovo in diretta. Oggi parliamo di prestiti, ma di prestiti particolari, prestiti che vengono fatti tra privati alla luce di una notizia che è arrivata nel fine settimana e una piattaforma molto attiva in questo settore, ce ne sono due per la verità in Italia, Zopa.it, si è vista revocare l'autorizzazione ad operare da parte del Ministero dell'Economia e della Banca d'Italia, che contestano le modalità operative. Noi ne stiamo parlando questa mattina intanto per rassicurare tutti gli aderenti a questa comunità, quelli appunto di Zopa.it. Ne stiamo parlando con l'amministratore delegato Maurizio Sella per capire a questo punto che cosa succede, ma soprattutto vorremmo estendere il discorso anche al tema del social lending nel nostro paese. Ci aiuta Pier Emilio Gadda, collega esperto di fondi etici, di microcredito e anche di queste tematiche. Pier Emilio, ti faccio sentire una domanda di Alessandro e poi da lì partiamo anche per rispondere a chi invece insomma sollevava un altro tipo di problema: il social lending non visto tanto bene nel nostro paese e ovviamente una fetta di business che magari alla banca tradizionale viene tolta. Alessandro da Bologna. Buongiorno a lei. Ho partecipato a Zopa, penso dagli inizi, uno dei primi a partecipare, un po' per curiosità più che altro. E sicuramente sono stato molto soddisfatto del servizio, ma la cosa che mi interessava capire era come mai in Italia c'è questa remora proprio sul discorso del social lending. Già Zopa è attivo anche su altri mercati, UK, Stati Uniti, Giappone, lì non sembrano avere problemi. Sì, Alessandro, credo che invece negli Stati Uniti qualche problema ci sia stato, poi magari ne parliamo. Però Pier Emilio, cominciamo proprio più in termini generali ad affrontare la questione. Quando parliamo esattamente di social lending, perché avevo promesso anche al dottor Sella di fargli spiegare come funziona esattamente la società, ma in termini concreti di cosa stiamo parlando? Ma in termini concreti stiamo parlando di una piattaforma tecnologica, perché è possibile chiedere prestiti o mettere a prestito dall'altra parte una certa somma di denaro attraverso internet e quindi attraverso una piattaforma. Importi che insomma vanno da 100 euro, mi pare che sia l'importo minimo, fino ad un massimo di 50.000 euro. Uh-huh. Però anche qui è importante fare una sottolineatura, proprio perché in pratica questo tipo di somme che vengono prestate ai richiedenti non hanno nessuna garanzia di fatto. Cioè Zopa agisce esclusivamente da facilitatore, cioè mette in comunicazione una domanda, una richiesta di denaro e un'offerta di denaro da parte di chi vuole appunto mettere a prestito una certa somma. Le somme che vengono prestate vengono suddivise, nel caso di Zopa, in mi pare una cinquantina di microprestiti. Uh-huh. Questo consente anche oltretutto di diversificare il rischio, per cui una somma anche piccola viene a sua volta parcellizzata in tante piccole quindi somme. Quindi facciamo l'esempio: se io mettessi a disposizione di Zopa, adesso non posso più fare, 1.000 euro, i miei 1.000 euro non andrebbero a soddisfare 1.000 euro di richiesta di un unico richiedente, ma andrebbero parcellizzati in 5 prestiti. Esatto, ammettiamo. Esattamente, no, in 50 o in 50 Sella, prestiti addirittura di più. Esatto. Perfetto. Ecco, secondo me quindi questo sistema effettivamente ha dato dei buoni risultati. Perché? Perché per quanto riguarda i richiedenti c'è stata la possibilità di accedere a finanziamenti a tassi significativamente più bassi rispetto alle banche e soprattutto alla società finanziaria. E dall'altro lato, per quanto riguarda i prestatori, diciamo social lending ha rappresentato una forma di comunque messa a prestito, messa a reddito, anche una sorta di investimento, se vogliamo. E per me è importante sottolineare soprattutto questo, che il problema di cui stiamo parlando oggi in Italia per quanto riguarda Zopa, quindi la cancellazione dall'albo della società finanziaria, ha a che fare con un problema di regolamentazione. Quindi il business ha dimostrato di funzionare, e questo nonostante due problemi tipici forse anche del mercato italiano. Prima si parlava proprio di questo, ovvero social lending è un sistema diciamo che è evoluto sia dal punto di vista finanziario, perché chiaramente già presuppone l'utilizzo dei servizi di home banking, internet banking, e dal punto di vista tecnologico. In un paese in cui la cultura finanziaria tecnologica è meno sviluppata rispetto ad altri paesi, il successo di Zopa è già, secondo me, è un caso tutto sommato. Esatto, no, tra l'altro noi non vorremmo parlare di complotto, perché ci viene anche da ridere parlare di questi argomenti, anche se qualche ascoltatore, l'accanito sostenitore della comunità, lo solleva addirittura. Ma Pier Emilio, siamo in grado di spiegare i motivi per cui l'altra comunità che opera nel settore, che ha delle analogie operative evidentemente, non è stata interessata a nessun tipo di intervento del genere, revocativo di nessuna autorizzazione? Infatti Sella se lo sta chiedendo pure lui. No, non lo sappiamo, non lo so, no, io non commento. Pier Emilio, da quanto ne so io, che ho avuto anch'io contatti con loro in questi giorni, mi pare che non ci sia stata nessuna iniziativa in tal senso. Le però ragioni... neanche Sella se la immaginava. No, non vorrei ovviamente tirarla, ragioni... ci mancherebbe altro, però insomma sarebbe curioso capire qual è anche la, come dire, ragioni, la differenza. Le ragioni sono appunto per quello che è possibile ovviamente dire oggi, in un sistema che è un po' diverso, perché loro non hanno il collettore. Esatto, diciamo che mentre su Zopa questi prestiti vengono sostanzialmente messi in collegamento, parcellizzati in modo automatico, quindi il prestatore semplicemente dice io voglio prestare 1000 euro a persone che hanno un certo profilo di rischio e a un certo tasso di interesse, e a quel punto la comunità soddisfa questi requisiti, esatto, queste condizioni, viene incrociata automaticamente con le richieste che hanno le stesse caratteristiche, quindi il tutto in modo automatico, perché c'è qualcuno che magari, dottor Sella, poteva anche dirsi disponibile ad accettare un maggior grado di rischio? Sì, uno poteva selezionare ovviamente di prestare soltanto a categoria ad alto rischio, che poi va detto che noi siamo stati sempre molto conservativi, estremamente selettivi. Volevo dare qualche dato, perché noi abbiamo fatto circa 1600 prestiti fino a venerdì, di questi considerate che abbiamo circa 36 ritardi. Avete intermediato una somma come 7 milioni e 2, ecco. circa. Quindi questo vuol dire dei ritardi del 2%. Ritardo non vuol dire perdita, vuol dire che probabilmente qualche perdita ci sarà, supponiamo un 1%, questo a fronte di un mercato che perde in media sui prestiti personali il 5%. Altra cosa importante, ho sentito dire che ci sono 40.000 persone che si sono scambiate denaro, questo non è corretto, in realtà sono iscritte alla newsletter nostra 43.000 anche persone. La stampa nel pezzo di domenica di ieri dice 40.000 transazioni sul web in un anno, non è assolutamente corretto. Ci sono in questo momento su Zopa ci sono quasi 4.000 prestatori, abbiamo erogato circa 1.600 prestiti, questi sono persone che si sono attivate, poi c'è molta gente che è interessata a noi eccetera, ma questi sono i numeri, quindi è un fenomeno interessante che funziona molto bene, molto apprezzata dalla comunità, ed è questo che diciamo soprattutto dispiace un pochino, anche perché poi noi siamo in un'attività, adesso siamo in Italia, abbiamo delle raccomandazioni italiane, ma c'è tutta un'evoluzione legislativa, c'è una direttiva europea sui sistemi di pagamento che entrerà in vigore il primo di novembre, che cambia radicalmente tutto e che francamente supporta un pochino il nostro caso. Allora, non so quali siano stati i vostri rapporti con le associazioni dei consumatori, dottor Sella poi magari ci racconterà anche questo, ce n'è una di Consum che non è mai stata convinta, non tanto del modello di Zopa quanto in termini generali appunto del tema del social lending, forse queste due piattaforme non sono mai state particolarmente simpatiche a questa associazione dei consumatori. Fabio Picciolini ci ha spiegato i motivi per cui contesta anche la crescita del social lending nel nostro paese. Sentiamo che cosa ci ha detto, l'abbiamo raggiunto questa mattina, è stato ospite nostro a Soldi e Dintorni, poi ho fatto due chiacchiere con lui anche su questo tema, sentiamolo. Ci suggerisce che forse era opportuno pensarci un attimino prima, perché ormai sono coinvolti almeno qualche migliaio di consumatori. Dico pensarci un attimino prima perché purtroppo abbiamo fatto come associazione, come di Consul, le cassandre, dicendo che era una modalità di finanziamento non opportuna, o meglio non regolamentata in Italia. Qual è il problema di fondo? Anche senza conoscere ancora il decreto del Ministero dell'Economia, che anche se iscritta all'articolo, all'elenco ex 106 della legge bancaria, quindi come società finanziaria, e su questo avrebbe avuto un discorso molto particolare sulle società del 106, Zopa fa raccolta di risparmio, perché lei fa solamente la mediazione tra colui che vuole versare un importo o investire un importo e colui a cui serve un certo ammontare. La raccolta di risparmio non è serve un'autorizzazione Consob, che ovviamente Zopa non aveva, e non agiva come 106, ovvero non era lei che finanziava i debitori, coloro che chiedevano un prestito. Questo a nostro avviso era già un problema iniziale. E posso aggiungere che è una di quelle cose che finalmente vengono alla luce da quando è stato abolito l'ufficio di cambio, e Banca d'Italia è molto più attenta a questi aspetti. C'è però un'altra piattaforma che opera con delle modalità molto simili nel nostro paese, si tratta di Boober, che non è stata interessata ad un intervento analogo, però per quale motivo? Ma dunque, Buber funziona e Verizio funziona all'incirca allo stesso modo. Sappiamo per certo che Banca Etica si sta muovendo a 360 gradi, sono stati 11.000 gli agenti finanziari già cancellati, sono state cancellate oltre 260 società finanziarie. Io penso che in argomento dovrà essere fatto un provvedimento specifico, perché è vero che sono Zoppa e Buber le due finanziarie principali, ma da pochissimo, è sostanzialmente ancora in attivo, è entrato un terzo soggetto che è statunitense, quindi è un argomento, il social lending o il peer-to-peer, chiamiamolo un po' come ci pare, che sicuramente ha bisogno di una legislazione, ma una legislazione che appunto parta dalla tutela del consumatore, perché anche quello che si dice, che c'è un rendimento elevatissimo per chi investe e un rendimento e un costo molto basso per i prenditori, è relativo fino a un certo punto, perché se è vero che chi presta il denaro ha una media del 7%, allora bisogna vedere qual è il rendimento effettivo. Ricordiamoci che ci sono dei costi non indifferenti per Zoppa, sia per il prenditore che per il finanziatore. Il finanziamento costa all'incirca il 10%, il 9-10%, e attualmente, se prendiamo alcune operazioni di prestito non finalizzato, ad esempio quelle offerte dalle banche, il tasso è anche inferiore. Certamente, come dice la stessa Zoppa, ci sono tassi superiori, ma mediamente sono anche tassi molto più bassi, senza dover ricorrere a questa tipologia di finanziamento. Dottor Sella, amministratore delegato di Zoppa.it. Allora, abbiamo sentito i rilievi mossi dall'Associazione dei Consumatori. Fabio Picciolini dice, insomma, noi lo dicevamo dall'inizio dell'attività di questa piattaforma, fa raccolta di risparmio, quindi aveva bisogno dell'autorizzazione Consob, bisognerà vedere se poi, conoscendo le motivazioni del blocco dell'autorizzazione ad operare di Banca d'Italia, ci sarà anche questo motivo. Quindi uno. E poi, in qualche maniera, Picciolini mi sembra anche il contesti un po' comunque il contesti, muove delle osservazioni anche a proposito dei costi dei prestiti che comunque vengono veicolati dalla piattaforma, dice non sono poi così tanto più convenienti dei canali tradizionali. Allora, sulla prima contestazione, Zoppa fa raccolta di risparmio, è chiaro che questa è una gravissima accusa, anche noi rigettiamo in pieno, come dicevo dall'inizio. Tra l'altro, se facessimo raccolta di denaro necessiteremo non tanto dell'autorizzazione della Consob quanto quella della Banca d'Italia, dovremmo essere una banca per cominciare. Volevo dare questa contestazione comunque, sì. Banca d'Italia fino adesso, anche nelle ispezioni che esattamente fatto... la contestazione che ha fatto, a cui abbiamo risposto, a cui hanno detto che facciamo raccolta. Quindi Banca d'Italia vi ha fatto questo rilievo? Sì, assolutamente. Però no, commentavo il discorso della Consob. Volevo solo dire che per far capire le cifre, il nostro prestatore medio presta circa 2.000 euro. La giacenza media sul conto di Zoppa per ciascun prestatore sono 300 euro. Le persone che trasferiscono denaro da noi, diciamo che entro 45 giorni l'hanno trasferito al 100%, l'hanno prestato. Quindi stiamo parlando di giacenze di entità molto piccola e per durata molto limitata. Quindi stiamo parlando di un fenomeno assolutamente, secondo me, marginale. Comunque, detto questo, per quanto riguarda la convenienza, è vero che il 7,8% non ci sono le commissioni, quelle dopo le commissioni. C'è una tassazione che ci sfavorisce in questo caso, perché noi applichiamo una ritenuta d'acconto del 12,5%, ma bisogna mettere in dichiarazione. Detto questo, vorrei fare un paragone con i rendimenti nel 2008 dei mercati finanziari. Se il dottor Picciolini ha avuto dei rendimenti superiori, allora lei lo riparagona di nuovo ad uno strumento di investimento. Ho capito, ma questi sono prestiti, voglio dire, è un'alternativa. Uno può investire in bot, in CCT, quello che vuole, in borsa, aver perso il 40%, in obbligazioni corporate, aver perso il 40%, e invece aver messo anche una piccolissima parte, stiamo parlando di cifre francamente irrisorie rispetto al mercato, ed avere dei rendimenti buoni. Detto questo, il tasso del 9,6% ha ragione, rispetto alle banche non è così competitivo, ma noi stiamo parlando di, se uno ha un rapporto con la banca è chiaro che la banca lo conosce bene e quindi dà dei tassi più bassi. Uh-huh. Le finanziarie applicano i tassi medi del 14,5%. Dottor Sella, io avevo anche un'altra parte di Picciolini, per non rubare tempo, certo, alla trasmissione non la faccio sentire, le sintetizzo io quello che lui chiedeva. Io credo che probabilmente vi chiederanno un incontro adesso per capire come intendete tutelare la comunità già attiva su Zoppa, che da oggi a questo punto non può fare più niente. Allora, ammettendo che io vi abbia dato 2.000 euro del mio denaro e che questo denaro sia stato parcellizzato, messo a disposizione della comunità dei richiedenti, a questo punto che cosa devo fare? Devo aspettare che tutti onorino il prestito richiesto per rientrare in possesso del mio denaro, come tutelate le persone che vi hanno appunto dato noi soldi? Continuiamo ad operare come abbiamo operato fino adesso, nel senso, da questo punto di vista, cioè la gestione dell'ordinario. Quindi il tema è che non potete soddisfare ulteriori richieste, ovviamente non richieste. Non, come a tutela dei 3.500 prestatori, no? Questo credo che sia molto importante, è una nostra preoccupazione molto forte, anche se siamo francamente molto supportati dai nostri prestatori che ci dicono: noi non vogliamo ritirare denaro, ma noi gli stiamo dicendo: ma ritiratelo, casomai quando riapriamo ridatecene di più. E questo è un po' il messaggio. Comunque noi gestiamo tutto l'ordinario, nel senso addebitiamo i conti correnti dei richiedenti nelle date previste, come quindi l'addebitiamo, accreditiamo le rate, facciamo tutto il recupero del credito e quello che se necessario, ma ripeto, sono dei numeri talmente limitati, anche dei ritardatari fino a questo momento, che diciamo necessita di un'operatività limitata. E che non venga in mente chi ha chiesto un prestito, naturalmente, che adesso la può passare liscia. No, certo, anzi, cioè per tutti i richiedenti che poi sono tentati dal ragionamento: adesso cosa succede? Smetto di pagare. Bisogna ricordare che poi la procedura di recupero crediti va avanti, e sappiamo tutti cosa significa poi essere iscritti nei registri dei cattivi pagatori. Quindi è un ragionamento molto pericoloso. Infatti, questo. Assolutamente. C'è un'altra dichiarazione che è circolata sulle agenzie in questi giorni a commento di questa vicenda. Un'altra dichiarazione che ha fatto un po' arrabbiare il dottor Sella è stata quella di Giuseppe Maresca, direttore generale capo della Direzione per Prevenzione dei Reati Finanziari del Tesoro. Il sistema di prestito peer-to-peer, ha detto, riesce a raggiungere i segmenti di utenza più marginali rispetto al settore bancario. Si tratta di uno strumento complementare alle banche e non in competizione con esse. Se non se la sente di rispondere, dottor Sella, rispetto a questo... No, non sono arrabbiato affatto, mi fa piacere. Non capisco perché, comunque, allora, se siamo tutti d'accordo su questo, come mai c'è un procedimento di cancellazione che arriva proprio dal Ministero delle Finanze. Francamente è vero che loro, da quello che ci dicono i nostri consulenti, non commentano particolarmente le decisioni di Banca d'Italia, non entrano nel merito, normalmente è una decisione di Banca d'Italia che viene formalizzata dal Ministero, però da un lato mi fa piacere sapere che anche loro sono con noi. È anche vero che Maresca ha detto: grazie al social lending è possibile servire chi non ha garanzie personali, ad esempio, o chi ha un reddito precario. Le banche tradizionali non sono attrezzate per vincere questa scommessa. Questo forse è il messaggio sbagliato, esatto, che è passato di tutta la vicenda, Pier Emilio, perché sì, non è vero che questa piattaforma si soddisfa il credito che non ha invece la possibilità di essere soddisfatto. Ecco, questo è appunto tecnicamente quello che viene definito microcredito. In realtà, come diceva anche l'amministratore delegato Sella, le persone che ottengono il prestito sono sottoposte a uno screening piuttosto rigido, quindi anche perché soprattutto nelle fasi iniziali era di fondamentale importanza garantire anche tutti quelli che erano i prestatori e garantire il corretto funzionamento della macchina. Quindi in realtà le cose non stanno proprio così. Semplicemente, come dicevo prima, è una piattaforma per mettere in comunicazione domanda e offerta di denaro. Il discorso che vengano finanziate persone che non possono dare garanzie non esiste in questa forma, se parliamo di social lending. Certo, c'è qualcuno però, come ci diceva prima, che magari ha un grado di rischio un po' più elevato, ma questo viene assolutamente messo a conoscenza della comunità. Assolutamente, però posso dire che grazie a Zopa noi abbiamo finanziato il 7% dei nostri finanziamenti sono a favore di lavoratori atipici, quindi contratti a termine, un 4% part time, quindi comunque abbiamo cercato di valutare chi aveva una buona storia creditizia comunque positivamente. Un minuto e mezzo di tempo, dottor Sella, le permetto di chiudere questa trasmissione. So che ovviamente, cioè, ci mancherebbe anche dire questa ovvietà, la vicenda le lascia molto amare in bocca, probabilmente le manda in fumo anche le vacanze. Cosa farete adesso? Cosa state facendo? Ma ci stiamo attivando per tutelarci da un punto di vista legale, allo stesso tempo, diciamo, come dicevo, siamo più che altro sbigottiti dal comportamento e dalla comunicazione che ci è arrivata. È un peccato perché da un lato Zopa, se ci pensate bene, garantiva per esempio il controllo. Voi sapete che i prestiti personali tra persone che non passano attraverso le banche sono miliardi di euro l'anno. Grazie a Zopa questo avveniva attraverso circuiti tracciabili bancari e quindi si evitavano fenomeni di usura, si controllava che non ci fosse il fenomeno di antiriciclaggio e allo stesso tempo anche il fisco ne beneficiava, perché altrimenti, quindi è un vero peccato. Io credo che fosse veramente un esercizio molto virtuale Zopa, e ci auguriamo e siamo sereni di essere nel giusto e che questo possa ci riprova lei comunque a riproporre il modello che le ha chiesto la Banca d'Italia. Italia, a patto che dica chiaramente che quello almeno gli va bene. Io vi ringrazio molto per essere stati con noi, dottor Sella. Mi raccomando, non mi faccia pentire di aver fatto questa trasmissione, di aver sentito la sua versione dei fatti, che noi naturalmente accettiamo molto volentieri perché vi conosciamo. E insomma, Pier Emilio, chiudiamo anche con sì, te. Io darei un'ultima indicazione, un altro messaggio ai nostri ascoltatori. Una recente indagine di Gartner, che è una delle più importanti poi società di ricerca, di consulenza al mondo nel segmento dell'information technology, ha previsto che entro il 2013 circa il 10% del mercato dei prestiti tra privati avverrà su piattaforme di social lending. Quindi è un fenomeno che io credo sia destinato comunque a crescere al di là di questo momentaneo incidente di percorso. Benissimo, chiamiamolo così. Allora, grazie molto, dottor Sella, buona fortuna. In bocca al lupo per tutto. Crepi. Grazie anche a Pier Emilio Gadde per essere stato con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata.